Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui, dopo il breve suggerimento da parte della regia, della pubblicità. Come annunciato, completiamo, questa sera la parte dedicata alle attese, interviste, alle attese elezioni americane e abbiamo, il piacere di parlarne con, Roberto Toscano, che è stato vice ambasciatore a Washington tanto tempo e che potrà raccontarci sicuramente, quella che è stata la sua esperienza personale, nonché raccontarci anche di quello che può essere un eventuale esito. Ambasciatore, Buonasera. Grazie. buonasera, benvenuto a Brustellando, a Radio Alma. Allora, io sono veramente contenta di aver la nostra ospite. Innanzitutto è un ospite che ritorna, quindi quando un ospite ritorna vuol dire che la prima impressione è stata oltremodo positiva. L'altra volta avevamo parlato di multiculturalismo, questa sera invece parliamo di una questione un po' più precisa, che è quella delle elezioni americane. Ne abbiamo già parlato con il direttore esecutivo del Fondo Marshall qui a Bruxelles, Ian Lesser, il quale ci ha raccontato soprattutto la sua esperienza in qualità di expat. Lui ha detto proprio così durante la sua intervista. Ambasciatore, le faccio la stessa domanda che avevo fatto anche a Ian Lesser qualche tempo fa. Secondo lei, nel descrivere i due ritratti, quello di Obama dall'altro, che ricordiamo è il presidente in carica, e quello invece del suo sfidante, che è Mitt Romney, ci sono degli elementi in comune tra le due personalità oppure sono due figure completamente diverse? Ma le figure sono veramente contrapposte da tantissimi punti di vista. Il punto su cui però finiscono per convergere è il riferimento a quello che io definisco l'ideologia americana, di cui costituiscono due versioni. Vede, quando è finito il comunismo, ci si è sbizzarriti a scrivere libri e articoli sulla fine dell'ideologia. Bene, si trattava della fine di un'ideologia, non certo di quella americana, che è potentissima e molto radicata. Le faccio un esempio. Innanzitutto, nessuno può smentire diciamo, il presupposto fondamentale su cui si basa l'identità americana, cioè quello della specialità, della unicità dell'esperienza americana. E su questo lei vedrà che entrambi i candidati sono d'accordo. E poi ci sono tantissime altre cose su cui, anche se ci sono divergenze, poi a livello di espressione e di presa di posizioni pubbliche ci sono limiti a quello che un candidato può dire. Esempio concreto, il controllo sulle armi da fuoco. Nonostante gli ultimi episodi tragici, Wisconsin, nel Colorado, Obama, che pure noi sappiamo che sarebbe favorevole profondamente a maggiori controlli sulla disponibilità di armi da fuoco da parte dei cittadini, non può farlo, non può dirlo perché sente che questa ideologia dell'indipendenza dell'individuo, che deve difendersi da solo, eccetera, eccetera, abbiamo tutti i film western, no? E tutto questo non passa. Ecco, quindi la diversità delle personalità, delle esperienze, anche della linea politica di fondo, si snoda però all'interno di un percorso ben chiaramente delimitato da un'ideologia di base. Ah, beh, effettivamente è vero questo punto. Tra l'altro, sono anche altre divergenze che ritornano, però quello delle armi da fuoco mi sembra un punto molto importante. E lo stesso sicuramente mi potrà confermare sulla pena di morte. In Europa è da. Un altro tema è senz'altro quello della pena di E morte. Quello della pena di morte, dove lei sa che c'era stato per un certo periodo l'abolizione della pena di morte, poi negli anni 70 è stata reintrodotta. Perché l'abolizione della pena di morte ancora non è recepita come un valore positivo. Devo dire però che se lei guarda la carta geografica degli Stati Uniti, non è tutto uguale. Ad esempio, in California c'è un referendum su cui si voterà in occasione proprio di queste elezioni, perché come le sanno non ci sono solo elezioni presidenziali, ci sono anche elezioni parlamentari e referendum che si Assolutamente. abbinano, e c'è un referendum sulla pena di morte. E alcuni stati nel nord-est hanno già abolito la pena di morte, però il grosso del paese ancora ritiene che la pena di morte sia giusta. Uno, anche se ha dimostrato che non ha effetto deterrente, che viene applicata più a certi livelli della scala sociale che a altri, eccetera, eccetera, ma questo non basta. Pensi che chi si oppone alla pena di morte è così disperato che sta persino cercando di portare avanti una campagna secondo cui la pena di morte è più costosa per l'erario pubblico che non l'ergastolo, perché di solito comporta lunghi periodi di carcerazione con appelli vari e quindi costa alle casse pubbliche. Ecco, quindi questo dimostra che invece la battaglia che invece è stata stravinta in Europa, una battaglia di principio, di valori, certo, in America non passa, o perlomeno non passa ancora. Io sono ottimista per il futuro perché ci sono dei segnali, però questo è importante per capire come stanno le cose. E poi devo dire una cosa, parlando sempre dell'ideologia americana, poco prima che lei chiamasse io stavo guardando un servizio di Al Jazeera e una corrispondenza dagli Stati Uniti, e c'era l'intervista, credo in Florida, al proprietario di un negozietto dove vendono, credo, gelati o qualcosa del genere, e gli chiedono per chi avrebbe votato, e lui dice: ah, per Romney, perché Obama non ha mai gestito un business. Ecco, una espressione del genere lei in Europa non la sente. Uno può essere di destra o di sinistra, ma non è che si decida sulla scelta di un candidato perché uno ha gestito o non ha gestito un business. Allora, se Romney vince questa notte, sarà anche, io direi quasi soprattutto, perché è un businessman, che è la figura chiave dell'ideologia americana, mentre l'altro, attenzione, è un intellettuale. Certo. Che in America può essere una parolaccia. Tra l'altro, un'altra delle differenze, così magari completiamo le differenze maggiori che abbiamo potuto vedere tra i candidati durante le elezioni, è proprio il lavoro. Perché Barack Obama ha proposto la creazione di milioni di posti di lavoro attraverso il settore manifatturiero entro il 2016, incentivando soprattutto le aziende a non delocalizzare. Questo è stato uno dei temi più dibattuti, mentre Mr. Romney invece, proprio durante il terzo dibattito, ha promesso che ci saranno 12 milioni di posti di lavoro che saranno creati grazie alla riduzione delle imposte. Sì. Vede, la cosa molto curiosa è che anche se persino i progressisti in America sono molto lontani da una visione statalista dell'economia, poi alla fine dei conti si attribuisce a un presidente degli Stati Uniti la possibilità o il dovere di creare posti di lavoro, che è una specie di contraddizione rispetto a un'economia di mercato. È difficile creare posti di lavoro anche in un'economia statalizzata, si immagini poi i posti di lavoro. Sì, ci possono essere misure che facilitano, misure creditizie, misure fiscali, però tutto questo si appiattisce molto, dice: io creerò tanti posti di lavoro, no, ne creerò di più io. Anche questa è una cosa un po' che fa sorridere da un punto di vista dell'economia e della politica. Però in questo è stato Romney probabilmente è stato molto più bravo di Obama, perché soprattutto quando si parlava di politica estera Romney riusciva sempre a svincolare, non ha mai risposto precisamente a queste domande, ha sempre saputo riportare l'attenzione proprio sui temi di politica interna. Però questo se conferma, questa è stata la mia interpretazione. È il punto fondamentale, Romney lo sa e gioca in vantaggio proprio perché lui è il businessman. Beh, l'ha detto più volte, ha detto: io nei miei anni di attività ho fatto questo, quest'altro, quindi insomma lui ha saputo lanciare un messaggio. Tra l'altro qualche tempo fa abbiamo parlato con un collega, il quale lavora per una società americana però in Italia, e gli abbiamo chiesto quali fossero gli umori in questa azienda, e lui dice che tutti i suoi colleghi d'oltreoceano in America voteranno Romney perché ha promesso che abbasserà le tasse, quindi che non ne imporrà nuove tasse. Esattamente. Ecco, questo è un altro aspetto molto molto importante. Vede, a nessuno piace pagare le tasse, anche a noi in Europa, però il cittadino europeo medio recepisce il fatto che si tratti di una necessità e di un dovere a fronte del quale lo Stato poi è in grado di fornire tanti servizi. In America le tasse sono generalmente viste come una rapina, se posso permettermi un'espressione che è stata usata in Italia: mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Assolutamente. Tra l'altro mi collego a quello che ha appena detto, perché sulle imposte è stato Romney molto chiaro, ha promesso una riduzione delle imposte sulle società dal 35 al 25%. Sì, quindi... ma non so se ha notato che quando si è visto, si sono visti quante tasse aveva pagato Romney, e l'aliquote erano attorno al 14%, mentre uno che lavora come cameriere in un diner paga molto di più. È stato molto interessante quando Warren Buffett, che è uno dei più potenti miliardari americani, ha detto: certo che è buffo che io pago l'aliquota di imposta inferiore a quelle dei miei dipendenti. Insomma, il sistema è effettivamente abbastanza squilibrato, e devo dire che l'elezione di Romney non farebbe che consolidare questo squilibrio. Allora il mistero è proprio quello. E beh, certo. Perché, se è vero che esplicitamente Romney è portatore di una visione e quindi di una policy che favorisce un settore ridotto della popolazione, la maggioranza della popolazione lo stesso potrebbe votare per lui, senz'altro circa la metà voterà per lui. Ecco, allora questa è la vera domanda americana e questo è il vero discorso che diventa ideologico. Alla fine dei conti siamo nel campo della ideologia, ovvero di qualcosa che è difficile smentire sulla base dei dati e della dimostrazione razionale. Beh, in realtà possiamo citare qualcun altro prima di Romney che ha saputo fare questo discorso e poi è stato al governo per tanti anni. Sì, sono pienamente d'accordo, infatti prima l'ho citato. Questo è un ulteriore dilemma che, insomma, ma forse è meglio restare oltreoceano, perché probabilmente a volte vedere le cose da lontano ci aiuta un po' di più. Guardi, allora lasci che le dica una cosa che secondo me è molto importante. E qua spostiamoci dall'America a quello che sta succedendo a livello globale. Io nella mia carriera, tra le varie esperienze, ho anche trascorso 4 anni negli anni 70 a Mosca e le assicuro che ho visto un sistema che non meritava di sopravvivere da tanti punti di vista, non solo dell'inefficienza economica ma della mancanza di libertà, eccetera eccetera eccetera. Detto questo, la fine di quel sistema per noi da questa parte non è stata positiva, è stata molto positiva perché aveva la sventura di vivere sotto quel sistema, ma per noi che invece il nostro sistema aveva dovuto rispondere a quella sfida e lo ha fatto dando risposte diverse a queste grandi slogan che erano alla fine retorici e truffaldini di uguaglianza, di diritti di tutti, di società più giusta. Ma quella giustizia noi l'abbiamo dovuta affrontare noi qui in gran parte perché dovevamo rispondere a quella sfida. Adesso che la sfida è finita, non so se ha notato le statistiche, ma la disuguaglianza sta salendo vertiginosamente dappertutto. E non credo che sia un grande risultato. Io lavoro nel campo delle statistiche, quindi purtroppo, insomma, potremmo citarne anche altre, queste confermano quello che ha appena detto. Terminiamo invece poi le differenze tra i candidati su un punto a noi molto chiaro, che è la politica estera. Sì. E io ho notato tutto sommato che tra i due c'erano molte convergenze, tant'è che Obama mi sembra un po' anche, quello ce lo dice anche Yalesser durante la sua intervista, lo stesso Obama tutto sommato un po' erede della politica estera di Bush. Se Romney dovesse essere eletto presidente, lei che cosa vede in termini di politica estera? Cambiamenti oppure si manterrà su una linea di continuità? Guardi, io non è che mi piaccia autocitarmi, però proprio oggi è uscito sul Manifesto un'intervista che mi hanno fatto e da un punto di vista ho detto che dal dibattito risultava una convergenza, come lei dice esattamente, veramente impressionante, in parte perché Obama è convinto, non è un radicale su niente Obama, è un moderato progressista centrista, ma in parte perché sa che su certi temi che hanno a che vedere con la bandiera che sventola, con i propri soldati, certe cose nessuno lo può dire, soprattutto se è democratico, perché i democratici devono sempre dimostrare di essere più tough dei repubblicani, perché altrimenti certo, c'è lo spettro di Carter, eccetera. Assolutamente. Allora, detto questo, però, le differenze ci sono e come. Pensi all'atteggiamento aggressivo e provocatore di Romney nei confronti di Russia e Cina, nei cui confronti invece Obama, che pure ha le sue divergenze, usa strategie molto più prudenti, che poi vediamo vengono messe in pratica molto bene da Hillary Clinton, che è un ottimo segretario assolutamente, di Stato. Assolutamente, non c'è questa. Lei sa chi sarebbe il nuovo segretario di Stato se vincesse Romney? Mi dica lei. John Bolton. Io ho avuto il piacere, per virgolette, di incontrarlo e le assicuro che è un estremista. Sì, so chi è Bolton. Estremista. E quindi, insomma, non sarei tanto tranquillo. Non dobbiamo, pur con tutte, so che i progressisti di tutto il mondo, compresi gli americani, sono delusi anche per la politica estera da Obama, non abbastanza coraggioso, non abbastanza deciso, ma la differenza c'è e come, e speriamo di non doverlo vedere con i nostri occhi. Io mi auguro davvero che i risultati, insomma, siano come noi ci auspichiamo. Allora, prima di salutarci, ancora un'altra domanda, perché l'ho fatta anche agli all'Esser, però lui mi dice che la percezione qui in Europa è la stessa come quella in America. Quanto contano questi stati chiave finalmente? Qual è il ruolo di questi stati chiave e fino a che punto riescono veramente ad influenzare il risultato finale? Sta parlando del sistema del collegio elettorale americano? Sì, esatto, sì. Sì, certo, no, certo. Guardi, c'è il paradosso che Obama potrebbe vincere la presidenza senza aver vinto la maggioranza del voto popolare, che non sarebbe una bella cosa, anche se potremmo considerarci lo soddisfatti. e il sistema è molto strano, è un sistema che viene dal passato. Esatto, sì. È un modo di garantire contro lo strapotere di un sistema federale con elezioni, chiamiamole, centralizzate. Però è sempre più goffo. Se lei ricorda l'elezione di Bush contro Gore e tutta questa questione della Florida, i conteggi, temo che anche questa volta potrebbero esserci dei problemi di conteggi, anche perché poi nei luoghi che sono stati colpiti adesso dal ciclone, sì, si voterà in un modo strano, perché essendo stati chiusi alcuni seggi elettorali si può votare fuori sede, ma il loro voto viene accettato in via provvisoria e ci vorranno 10 giorni durante i quali chi ha votato deve dimostrare di aver avuto diritto di votare. Insomma, temo che ci potrebbero essere delle confusioni proprio nei conteggi e insomma c'è molta agitazione in America per motivi comprensibili. Beh, tra l'altro proprio gli ultimi sondaggi, ritorniamo alle statistiche, ci dicono che la divergenza pare essere veramente minima in termini di stacchi elettorali, quindi effettivamente tutto si giocherà fino all'ultimo voto. Ambasciatore, il tempo in radio ahimè tiranno, quindi siamo veramente agli sgoccioli e noi veramente vogliamo ringraziarla per questo suo intervento. Grazie a voi. Speriamo di poter parlare. Magari speriamo di poter parlare tra qualche mese del nuovo presidente degli Stati Uniti, sia esso confermato oppure un nuovo presidente in petto. Grazie. Buona serata, a presto. Buonasera a lei. Arrivederci. Cari amiche, cari amici, eccoci qui, abbiamo avuto quindi modo, possibilità di ascoltare l'ambasciatore toscano che conclude questi appuntamenti dedicati per l'appunto alle elezioni americane. Come sapete lo sprint finale è ormai lanciato, lo dicevamo prima anche con l'ambasciatore, nessuno sa esattamente chi vincerà, ma nessuno può saperlo. Io non credo molto, pur lavorando nelle statistiche, non credo molto, e non me ne vogliate, nei sondaggi e soprattutto negli exit poll. Credo che così come accade in Europa gli indecisi siano davvero tanti e prevedo, ma questa è una previsione che potremo accertare soltanto martedì prossimo, che il presidente in carica vincerà e vincerà anche con un risultato assai interessante. E, tra l'altro, questo accade un po' dappertutto, è anche la sfida delle democrazie, quelle attuali, quelle di riuscire anche a convincere, e in realtà per il momento, questo lo dimostrano effettivamente i dati, nessuno dei due candidati ha avuto nei sondaggi questa popolarità così attesa. Abbiamo visto che le divisioni sono tante, parlando dall'impiego fino alla pena di morte o anche all'uso delle stesse armi, che effettivamente sono temi che, di cui in Europa si parla sicuramente di meno. Che cosa dire? Noi siamo stati molto contenti di partecipare in maniera attiva al dibattito, speriamo di aver informato quanti non avessero seguito queste elezioni da vicino, e voglio darvi soltanto una curiosità. Dani M sbraccia in regia, non me ne voglia, ma lui sa che questo è un tema a me è molto caro, e voglio darvi soltanto la curiosità, perché mi chiedevo come mai gli americani votassero di martedì. Lì per lì mi sono detta, brussellando venendo del martedì sicuramente un ottimo segnale, invece probabilmente non c'entra assolutamente nulla, perché pensate, questa è un'abitudine che è stata presa già da lungo tempo, e il congresso stabiliva che ogni stato potesse scegliere liberamente la propria data a condizione che si situasse nei 34 giorni che precedono il primo mercoledì di dicembre. Il congresso quindi decise nel 1845 di cambiare questo modo, e novembre fu privilegiato perché permetteva soprattutto agli agricoltori di poter partecipare alle elezioni. Ma allora, perché il martedì dopo il 1° novembre? Perché con i mezzi di trasporto dell'epoca la popolazione doveva a volte partire almeno un giorno prima, e poiché a partecipare alla Santa Messa era sentito effettivamente come un obbligo, fu deciso di stabilirlo al martedì, perché, come dicevamo, molti dovevano lasciare le proprie case un giorno prima, quindi lunedì veniva considerato giorno di viaggio e il martedì giorno del voto. Quindi, scegliendo quindi il martedì che segue il 1° lunedì di novembre, l'elezione non poteva che svolgersi tra il 2 e l'8 novembre. Siccome Brustellando si occupa anche di suggerimenti e di curiosità, questa mi sembrava veramente una chicca da condividere con tutti voi all'ascolto. Io saluto Dani M, che è veramente sempre molto prezioso in regia. Continuo ancora e continuerò a farlo qualora me ne sia data la possibilità di salutare Ian Lesser, che è stato veramente straordinario. E martedì prossimo sapremo chi ha avuto ragione. E questa sera auguro a tutti una lunga notte di attesa e che vinca il migliore. Buona settimana a tutti da Mari D.